Io se tu mi chiedi cosa vedi, io ti dirò: vedo il mondo della paura, e sa paura la vincerò. Oh compagno, se tu mi chiedi cosa senti, io ti dirò: sento ridere tutti i padroni, e per questo io canterò. Compagni, siamo uniti, cantiamo ancor più forte. Scarpe rotte, scarpe rotte. Bisogna andare, bisogna andare. Come sorge il rosso sole dell'avvenire. Oh compagno, se tu mi chiedi cosa pensi, io ti dirò: penso a questi giorni fascisti, e per questo io canterò. Oh compagno, se tu mi chiedi cosa speri, io ti dirò: spero che noi ci cresca insieme, e per questo io canterò. Se tu mi chiedi cosa vuoi, io ti dirò: voglio l'uomo senza paure, e per questo io canterò. Oh compagno, se ancora chiedi cosa vuoi, io ti dirò: voglio un mondo senza paure, un mondo rosso, e canterò. Compagni, siamo uniti, cantiamo ancora più forte. Scarpe rotte, scarpe rotte. Bisogna andare, bisogna andare. Fino al cuore, fino al cuore.